Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Riunione in prefettura a Udine del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza dopo la rissa scoppiata a Cividale del Friuli fra due bande di minori nella zona della vecchia stazione. Al vertice anche il sindaco di Cividale, i responsabili locali delle forze dell'ordine e quelli di alcune strutture di accoglienza per minori stranieri come il Civiform. Ordinanza rispettata, lo fa sapere il comune di Trieste dopo la prima sera di controlli effettuati tra Piazza Perugino e Piazza Garibaldi sul provvedimento adottato dall'amministrazione. E a dare una mano alle disposizioni anti-alcol ci si è messo anche il temporale che ha investito la città. Le feste per il ritorno a casa di Mara Navarria e Giulia Rizzi, campionesse di spada alle Olimpiadi di Parigi, ad accoglierle in aeroporto a Ronchi e poi a Carlino e a Udine, dove risiedono parenti, amici e tifosi con le immancabili bicchierate. Domani sera ancora una festa al campo sportivo di Carlino con entrambe le medaglie d'oro. Durante le ferie estive i medici di medicina generale saranno sostituiti da professionisti competenti. Dal presidente dell'Ordine dei Medici di Udine Tiberio l'appello a non sovraccaricare i pronto soccorso, alla regione la richiesta di maggiore supporto e di risposte concrete alle criticità segnalate. Bel tempo in regione dopo la rapida ondata di maltempo fra il pomeriggio e la serata di ieri. Sulla costa e buona parte della pianura continuerà a splendere il sole, possibilità di qualche temporale anche in montagna, ma da lunedì tornano ovunque caldo e tempo stabile. Previsioni di traffico intenso in autostrada per il fine settimana con giornate da bollino nero domani e bollino rosso domenica. Si attendono circa 190.000 transiti domani e 160.000 domenica con code all'Isert e rallentamenti su A4 e A57. Il divieto per i mezzi pesanti sarà in vigore da oggi pomeriggio fino a domenica sera. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Cagliazza. Fare rete fra strutture di accoglienza, istituzioni e forze di polizia. Questa è la strada per evitare il ripetersi di episodi di violenza come quello verificatosi a Cividale martedì sera. Stamattina a Udine in prefettura un vertice sulla sicurezza. Rafforzare i contatti, comunque già stretti, tra i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e le forze dell'ordine. È una delle decisioni del Comitato per la Sicurezza che si è riunito a Udine, alla presenza anche dei gestori di Casa dell'Immacolata e del Civiform di Cividale. L'incontro è stato convocato dopo la rissa avvenuta a Cividale martedì sera. Calci, grida, lancio di sassi, vetri delle auto in frantumi nella zona della vecchia stazione ferroviaria. Scene documentate da video girati sui social network che hanno preoccupato i cittadini di Cividale. Il prefetto di Udine, Domenico Lione. Abbiamo preso atto di rafforzare i controlli, di sensibilizzare soprattutto i contatti con le forze di polizia da parte degli enti gestori con le forze di polizia, contatti che già avvengono, ma di renderle sempre più continui e più tempestivi. La dinamica della rissa è oggetto di accertamenti. Sono stati denunciati in stato di libertà per rissa 6 minori stranieri che alloggiano nel collegio annesso al centro di formazione professionale Civiform e 8 ragazzi tra i 18 e i 26 anni, residenti tra Cividale, Drenchia, Butrio, San Leonardo e Udine, che potrebbero essere arrivati nella cittadina proprio per la rissa. La sindaca di Cividale, Daniela Bernardi. Abbiamo veramente lo schieramento di forze per evitare che ci sia questo atteggiamento intollerante ed arrogante che viene un po' da tutti, perché l'episodio di Cividale è scaturito non solo da coloro i quali sono presso il centro di accoglienza. Udine, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale ieri pomeriggio verso le 18 a Fossalon, lungo la strada provinciale numero 19. A perdere la vita una motociclista di 43 anni residente nel Monfalconese, Andrea Sulli, che si è schiantato contro un furgoncino che viaggiava in direzione opposta. Al volante del veicolo c'era una donna di 20 anni trasportata all'ospedale in condizioni non gravi. Lo schianto deve essere stato violentissimo a giudicare dai numerosi rottami dei due mezzi sparsi sull'asfalto tutt'attorno. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto sul posto, i carabinieri. Importanti disagi al traffico nella prima serata di ieri sull'arteria stradale che collega Grado e Monfalcone. Prima serata di controlli, quella di ieri a Trieste, per l'ordinanza del comune che cerca di mettere sotto controllo l'uso di alcolici e di evitare il ripetersi di risse e violenze nelle aree comprese fra Piazza del Perugino e Piazza Garibaldi. Il meteo, con il forte temporale che ha colpito Trieste nella serata di giovedì 1 agosto, ha contribuito in modo determinante al rispetto, nella sua prima nottata di validità, dell'ordinanza anti-alcol del comune che riguarda la zona tra Piazza Perugino e Piazza Garibaldi. Il provvedimento prevede la chiusura dalle 23.30 alle 6 dei pubblici esercizi e delle attività che vendono alimentari e il divieto di detenere e consumare alcolici per strada. Tutti i locali dell'area, ha riferito il comune, hanno rispettato l'ordinanza con i controlli delle due pattuglie notturne della polizia locale che sono andati avanti fino all'1.45 senza riscontrare criticità particolari. Il provvedimento, valido per 45 giorni, era stato varato nei giorni scorsi in seguito ai numerosi episodi di violenza che si sono verificati di recente nella zona. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto mercoledì 31 luglio intorno alle 21.30, proprio su uno degli angoli di Piazza Garibaldi. Una rissa ha coinvolto almeno 8 persone di origine marocchina e tunisina, che appena sentite le sirene delle volanti chiamate da alcuni residenti si sono dati alla fuga. La polizia sta lavorando per identificarli anche attraverso l'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza dell'area. Ad avere la peggio è stato un 28enne ferito al torace da alcuni cocci di bottiglia e dai colpi di un coltello, rinvenuto a terra dagli agenti e sequestrato. Portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, il giovane non è in pericolo di vita. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Festa grande ieri sera per il rientro a casa delle due spadiste d'oro, le friulane Mara Navarria e Giulia Rizzi, di ritorno dal successo in coppia alle Olimpiadi di Parigi, ma le celebrazioni nella bassa continueranno fino a sabato. Sentiamo. La festa, quella vera, può cominciare quando alle 18.39 arriva l'aereo da Roma che riporta Mara Navarria e Giulia Rizzi in regione nella zona arrivi del Trieste Airport e un tripudio, tricolori, bandiere del Friuli e il coro Po Po Po. Perché sì, queste donne hanno battuto la Francia a casa loro. Centinaia tra amici, parenti, istituzioni in una celebrazione genuina proprio come Mara e Giulia. Giulia Rizzi, campionessa olimpica spada. Aspettavi questa accoglienza? Sì, cercavo di trattenermi come potevo, però insomma poi l'emozione è tanta e sono dalla lacrima facile, per cui no, è tutto bellissimo, stupendo, un'accoglienza così, non la immaginavo, cioè neanche insomma nei miei sogni. Tantissimi bambini con un sogno a cinque cerchi nel cuore. Ho pensato che potrei diventare una schermitrice come lei. È cominciata la seconda vita di Mara Navarria da Carlino, che dalla bassa è partita per una carriera che l'ha portata sul tetto di Olimpia a quasi 39 anni, proprio all'ultima gara. Il mio hashtag mamma atleta dal 2013, siamo qua accanto a me, è tanto perché io sono partita da Carlino come una bambina, come tutti questi bambini, e sognare, lavorare, avere vicino la famiglia, inseguire il sogno mi ha portata dove sono. Spero che tanti bambini possano sognare come ho sognato io. Foto, ringraziamenti, fiori donati dalle istituzioni e qualche tappo di ribolla fatto saltare. Il Friuli Venezia Giulia aspettava l'oro in rosa da ben 72 anni da Irene Camber, anche lei schermitrice, e scomparsa di recente. Dopo un viaggio sotto un'acquazzone tipicamente friulano, la festa si sposta a Carlino, ad attendere Navarria, mezzo paese che sente proprio questo oro, anche se ovviamente la medaglia è sua, e solamente sua. La festa nella bassa proseguirà sabato con un evento pubblico al campo sportivo proprio di Carlino alle 19 per celebrare sia Mara che Giulia. Il programma per ora è top secret. Carlino, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Le Olimpiadi ora in corso a Parigi, niente da fare per due atleti regionali, la judoka udinese Aya Tavano, battuta per Ippon ai sedicesimi di finale dalla serba Milica Žabić, e per il pordenonese Alex Ranghieri, che in coppia con Adrian Karambula è stato sconfitto nettamente per 2-0 dal duo formato dai cugini cileni Marco ed Esteban Grimalt. Dopo la batosta già subita per mano dei campioni in carica, i norvegesi Moll e Sorum. Ed è in corso in questi minuti la medal race per la classe 49ers del tratto di mare davanti a Marsiglia. In gara ci sono le due veliste italiane, Iana Germani, triestina, e Giorgia Bertuzzi di Rovereto, partite a mezzogiorno e un quarto con un sesto posto in classifica provvisoria, dietro Francia, Olanda, Svezia, Norvegia e Germania. Infine stasera, poco dopo le 20, scende in campo il gruppo B della qualificazione nel getto del peso col nostro Zane Weir in maglia azzurra, sudafricano naturalizzato italiano, il cui nonno era triestino. Risultato positivo, e voltiamo quindi pagina, risultato positivo finora per il servizio di numero verde istituito da Asugi a Trieste nell'Isontino per i casi non urgenti. Risponde al numero 800-614-302 ed è attivo 24 ore su 24 il numero verde gratuito istituito dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Asugi per la gestione della guardia medica e le circostanze che non necessitano ricovero immediato nell'Isontino. Attivo dallo scorso 1 giugno, il servizio è analogo all'iniziativa attivata a Trieste nel 2017 in conseguenza della chiusura delle centrali operative provinciali e per far fronte alle situazioni non urgenti. Un servizio con un obiettivo preciso, come spiega il responsabile 118 di Trieste, Alberto Peratoner. Il concetto, il principio, la volontà di governare i flussi, di evitare assembramenti, di vietare accessi impropri e di indirizzare l'utenza ai giusti percorsi, che siano pronto soccorso, che sia guardia medica o che sia 118. Positivo è il risultato registrato finora, come registra l'afflusso di utenze. Il servizio dovrebbe essere dedicato essenzialmente agli orari di guardia medica, quindi nei festivi, prefestivi e nel notturno, però viene utilizzato anche nelle ore diurne per avere informazioni. Netta la distinzione rispetto al servizio di guardia medica. La guardia medica è un servizio a chiamata, nel senso che l'utente deve chiamare questo numero, dopodiché verrà messo in collegamento con il medico che deciderà se farlo venire in ambulatorio. Ancora presente al momento nell'area isontina criticità di uso da parte degli utenti. Le criticità ancora da superare è far capire bene agli utenti che in guardia medica non ci si reca autonomamente al servizio, ma bisogna passare attraverso questo numero, che è un filtro. Un sistema che però, come avviene nell'area giuliana, consente di ottenere una maggiore sicurezza per il pubblico. È un servizio centralizzato che dà risposta sempre. Mentre prima l'utente andava alla guardia medica, magari la guardia medica non c'era perché era in visita o era assente. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. I medici di medicina generale si organizzano per le ferie estive, garantendo però la presenza di sostituti nei loro studi. Il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine, Gianluigi Tiberio, sottolinea l'importanza del periodo di riposo per i medici, ma assicura i pazienti sulla competenza dei sostituti, invitandoli a non affollare inutilmente il pronto soccorso. Negli ospedali, medici e infermieri affrontano carichi di lavoro elevati, spesso a causa di accessi inappropriati ai pronto soccorso. Tiberio esorta i pazienti a collaborare, fidandosi dei medici di medicina generale sostituti, contribuendo così al buon funzionamento del sistema sanitario. Rivolge inoltre un appello alla Regione, chiedendo maggior supporto per migliorare l'attività quotidiana dei medici, evidenziando le criticità già segnalate e proponendo soluzioni come la dematerializzazione delle ricette, la gestione separata delle visite specialistiche e il governo delle priorità. Il presidente Tiberi lamenta la mancanza di risposte concrete da parte delle autorità, nonostante i continui tentativi di dialogo costruttivo e la collaborazione richiesta ai professionisti della sanità. Il nostro obiettivo è migliorare il sistema a vantaggio degli utenti e svolgere al meglio la nostra professione, conclude Tiberio, auspicando risposte rapide alle proposte presentate. Torniamo alla cronaca. La Polizia di Stato di Udine ha arrestato un pregiudicato bengalese di 23 anni mercoledì 31 luglio per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, intercettato in viale Volontari della Libertà durante un controllo, era agli arresti domiciliari per un precedente furto. Alla vista degli agenti ha tentato di fuggire e si è opposto all'arresto, ma è stato bloccato e portato in questura. Dopo i rilievi è stato ricondotto a casa in attesa del giudizio di convalida. Il GIP ha poi disposto la custodia cautelare in carcere per la sua pericolosità sociale. Alle 10 di stamattina i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti in via Trieste per una fuga di gas causata dalla rottura di una tubazione interrata. Una squadra, supportata da un autobotte, ha messo in sicurezza l'area e fatto evacuare precauzionalmente 15 residenti e due attività commerciali. I pompieri hanno collaborato col personale dell'azienda del gas per intercettare la perdita. Una volta eliminata la fuga e verificata l'assenza di sacche residue di gas negli stabili, gli evacuati hanno potuto rientrare. Sul posto erano presenti anche carabinieri e polizia locale. La situazione meteorologica adesso: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla nostra regione, più coperto sui monti. Le temperature a Trieste 26 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura dell'acqua di 27 gradi, 27 gradi a Pordenone, 28 a Gorizia, 27 a Udine, 25 a Tolmezzo, 22 a Tarvisio, 20 gradi a Sappada, 22 gradi a Forni di Sopra e sul Piancavallo, 19 gradi sul Monte Lussari, 20 gradi sullo Zoncolan, 27 gradi e mezzo a Lignano, a Grado 26 gradi con temperatura dell'acqua marina in entrambe le località di 26 gradi. E passiamo alle previsioni del meteo. Tempo ancora un po' instabile nella giornata odierna, con temporali e acquazzoni soprattutto in montagna, più soleggiato sulla costa, ma l'anticiclone, quindi il bel tempo e il caldo, torneranno stabili sulla nostra regione a partire da lunedì. E allora sentiamo il previsore dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Federico Bonaldo. Per la giornata di oggi il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma dal pomeriggio saranno probabili rovesci temporali sparsi che dalla zona montana si estenderanno verso la pianura e con minor probabilità potrebbero interessare anche alla costa in serata. I temporali, in particolare su zona montana e pedemontana, potranno essere localmente forti, i venti saranno a regime di brezza. Temperature in lieve calo rispetto a ieri, con massime di 28-30 gradi sulla costa e di 30-32 gradi in pianura. Da domani, quindi da sabato, l'anticiclone subtropicale si rafforzerà nuovamente sull'Italia e anche sulla nostra regione, portando tempo che via via diventerà più caldo e stabile. Per quanto riguarda le giornate di sabato 3 agosto e domenica 4 agosto, su pianura e costa il cielo sarà poco nuvoloso, invece sulla zona montana permarrà ancora una certa instabilità con lo sviluppo di rovesci temporali, in particolare nei pomeriggi. I venti per entrambi i giorni, al mattino soffia Borino e poi brezza nel pomeriggio. Temperature che riaumenteranno nuovamente e raggiungeranno i 31-33 gradi in pianura e i 29-31 gradi sulla costa. La tendenza per l'inizio della settimana prossima? Da lunedì l'anticiclone prenderà maggior vigore e anche l'instabilità in montagna andrà a diminuire, quindi da lunedì martedì temperature ancora in aumento con massime fino a 35 gradi in pianura e anche sulla costa aumenteranno fino a 32 gradi e cielo che sarà sereno, poco nuvoloso, con rispetto a sabato e domenica il rischio di rovesci temporali che andrà a diminuire anche in montagna. Previsioni di traffico intenso per il prossimo fine settimana sull'intera rete di autostrade Alto Adriatico. Venerdì scorso furono registrati 200.079 transiti, un record storico. La tendenza a spostarsi anche durante la settimana è in aumento, ma sabato e domenica restano i giorni più critici. La giornata di ieri ha visto un traffico intenso con code di 3 km alla barriera dell'Isert sulla A4 e rallentamenti sulla A57. Per oggi sono previsti rallentamenti serali in direzione Trieste. Domani, sabato 3 agosto, sarà una giornata da bollino nero con traffico critico sulla A4 verso Trieste e possibili code all'Isert fino al tardo pomeriggio. Si prevedono circa 190.000 transiti con punte di 24.000 in uscita all'Isert. Domenica 4 agosto sarà da bollino rosso con circa 160.000 transiti previsti sulla A4 verso Trieste, dovuti anche ai primi rientri dei turisti. Il divieto per i mezzi pesanti scatterà alle 16 di oggi e varrà fino alle 22, riprenderà domani sabato dalle 8 e fino alle 22 e poi domenica dalle 7 alle 22. A partire da domani sabato la capienza della parte femminile dello stabilimento balneare Pedocin di Trieste aumenterà da 506 a 750 presenze. Questo incremento è reso possibile dalla realizzazione di una seconda porta d'accesso sul muro del lato femminile, progettata per garantire l'uscita in sicurezza delle bagnanti. L'intervento mira a migliorare la fruibilità della struttura rispondendo alle esigenze di maggiore afflusso durante la stagione estiva. in cima al K2 con il cuoio di un'azienda di Porcia. È stata infatti la Conceria Pressot di Porcia a fornire il materiale per la realizzazione degli scarponi della spedizione italiana che nel 1954 conquistò la seconda vetta più alta del mondo. C'è anche un po' di Friuli Venezia Giulia in quel grande sforzo collettivo che sta dietro la spedizione italiana sul K2. Nell'albo d'oro delle imprese che diedero il loro contributo, chi economico, chi sotto forma di beni e materiali, c'è la Conceria Pressot di Porcia che al capo spedizione Ardito Desio e agli altri fornì il cuoio per gli scarponi poi prodotti dal calzaturificio Garbuio di Montebelluna. Eugenia Pressot ci ha raccontato come l'azienda fu coinvolta nella grande avventura del 1954. Nel 1953, quando arrivò l'autorizzazione alla spedizione italiana in Pakistan, ci fu una chiamata alle aziende per la fornitura delle materie prime e delle attrezzature per la spedizione. E noi partecipammo con una candidatura col nostro cuoio e fummo scelti. Il cuoio venne accoppiato alla suola Vibram e costruito, realizzati degli scarponi nel calzaturificio Giuseppe Garbuio di Montebelluna col marchio La Dolomite, che oggi è Tecnica. Un'intersuola di cuoio, due parti di millimetri 3 accoppiate e con l'aggiunta della suola Vibram sotto. Ogni alpinista venne dotato di 5 paia di scarponi, più gli scarponi per la marcia di avvicinamento ai portatori che erano oltre 700 al seguito della spedizione. Oggi rimangono tanti ricordi di quell'esperienza. Che cosa c'è in azienda? Abbiamo un documento che ci ha autorizzato ad utilizzare il marchio K2 nei nostri timbri aziendali, tra i nostri marchi. È un timbro che ricorda il profilo del K2, l'altezza 8611, che noi usiamo ancora oggi perché quella tipologia di cuoio la produciamo ancora oggi. Quindi abbiamo questa autorizzazione. Gli alpinisti ci mandarono una cartolina firmata da tutti gli alpinisti con il profilo della vetta del K2 sul fronte della cartolina e questa la conserviamo in azienda. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un aggiornamento con le Olimpiadi di Parigi perché il duo di veliste formate... Il duo formato da Iana Germani triestina e da Giorgia Bertuzzi di Rovereto si è piazzato al secondo posto nella gara, nella medal race che si è disputata a partire dalle 12:15 nello specchio di mare antistante la città di Marsiglia. Dunque il duo azzurro nella classifica finale della competizione olimpica si aggiudica il quinto posto. Alcuni appuntamenti di oggi continuano gli appuntamenti della rassegna Geografia, Geografie Estate. Il giornalista Marco Valle porta al pubblico di Marina Iulia la sua ultima opera dal titolo Viaggiatori straordinari, storie, avventure, follie degli esploratori italiani, ripercorrendo fra le altre la storia di Pietro Savornian di Brazzà, il nobile di origine friulana che per primo esplorò il bacino del fiume Congo in Africa. Appuntamento alla spiaggia di Pippo a Marina Iulia alle 18. Etica della trasformazione, il tema scelto per l'appuntamento della rassegna Vostanis di oggi col neurologo Franco Fabbro e l'antropologo Giampaolo Gri, e accompagnato dalla musica del violoncello di Riccardo Pes. Giampaolo Gri svolgerà alcune riflessioni sulla necessità di un pensiero metamorfico muovendo da testimonianze che ci vengono dalla tradizione popolare, mentre il dottor Fabbro affronterà il tema di come migliorare se stessi e il mondo in un periodo estremamente critico come il presente, analizzando le diverse possibili soluzioni della storia culturale degli esseri umani per una crescita personale e proposte per un miglioramento politico. A Villa Caccia di Lestizza alle 21. Torna l'agosto archeologico in Carnia che quest'anno raggiunge la 35esima edizione, l'inaugurazione alle 18 a Verzegnis nella sala del Consiglio Comunale con la lezione su Romani e indigeni a nord di Aquileia a cura della docente dell'Università di Trieste Fulvia Mainardis. L'appuntamento successivo a Zuglio il 6 agosto sull'archeologia nella Valle del But. Estate di stelle a Palmanova, questa sera lo spettacolo sulla vita di San Francesco d'Assisi, un musical dal titolo Forza venite gente, che è arrivato a 3.500 repliche dalla sua prima rappresentazione nell'81, oltre 2 milioni e mezzo di spettatori al suo attivo alle ore 21 in Piazza Grande. Voglio andare lassù, breve storia delle sorelle Grassi, lo spettacolo scritto e interpretato da Melania Lunazzi. Sul palco, insieme a lei, l'attrice Ada De Logul, il fisarmonicista Sebastiano Zorza, la danzatrice Giulia Bean. Lo spettacolo arriva stasera alla sala polifunzionale di Moggio Udinese alle 20.45. Altri appuntamenti, il romanziere Maurizio De Giovanni chiude il ciclo estivo degli incontri di Pordenone Leggio in cantina con un incontro al titolo Pioggia per i bastardi di Pizzo Falcone alle 20.30 alla cantina I Magredi di Domanins a San Giorgio della Richinvelda. Serata di musica a Monfalcone, dove stasera si esibiscono i Toys, la più famosa e apprezzata cover band dei Queen di tutto il Triveneto. Lo show alle 21 sul palco allestito in piazza Unità d'Italia. Mentre l'orchestra giovanile dei Filarmonici Friulani si esibisce a Villa Adelaide su un repertorio tratto dalle opere di Giacomo Puccini alle 20.45. Sono le 12.55 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Viola Romanese e da Federico Comar. Ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cajazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.